Lei arriva, passo lento ma veloce allo stesso tempo, bella più che mai. Ma nessuno la potrà mai avere, stanza stretta, poca luce, aria calda, son felice. Tacchi a terra e preservativi è quello che c'è lì. Che regni la pace e tienimi con te, stringimi a te. Farò quello che tu vuoi, tu no, non lasciarmi mai, riscaldami. Io son solo da tanto, tanto, tanto, troppo tempo. Solo tu mi puoi guarire, solo tu mi puoi salvare. Quello che faremo adesso è squallido e tu lo sai. Ma ti prego, ti scongiuro, non fermarti proprio mai. Chissà perché io provo qualcosa per te. Chissà perché. Riscaldami, bella mia, dal freddo di questa vita. Riscaldami. Freddo sale ancora, sale, sale sempre più. Io ti prego, amore mio, fai come sai fare tu. Porta via questa mia vita, che lo sai non è un granché. E domani mi alzerò e il tuo sapore è ancora in me. Amore mio, ti amo come non mai. Non andar via, io no, non ti lascerò mai. Quant'è che vuoi?